Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 16. Prima l'essenza e poi l'Ein Sof. Ma l'Ein Sof ha dovuto sopportare quattro fasi prima che potesse entrare la creazione. La prima fase è Ein Sof, Keter. In un certo senso, Keter non è un livello, ma una luce che lui voleva che venisse nella creazione. Era il suo desiderio che la luce entrasse all'interno di questo posto. Il pensiero riguardo a cosa potrebbe venire. Prima vediamo Keter e poi Chochmah. Chochmah è il primo irruvidimento della luce. Keter è trasparente e Chochmah è il primo ricevitore che indica che il Chochmah diventa più ruvido. Prima deve esserci il grossolano, prima che la creazione possa essere creata. Chochmah è un grossolano. E poi abbiamo il seguente grossolano Binah. Ogni sfera ha certe qualità che sono specifiche per il proprio livello. E poi abbiamo il prossimo grossolano, Zeyrampin o Zeta. E l'ultimo è Malchut, e Malchut è la creazione futura. È quello che ho menzionato sopra, sotto tutto questo è chiamato mondo, Olam. Il mondo dell'infinito nel mondo è in Sof. Luce infinita. Tutte queste fasi sono solo grossolane. Tutto è grossolano e tutto riceve solo dall'Ein Sof della luce infinita. Queste sono le fasi della formazione della luce diretta. Quattro fasi, non possiamo vedere Keter come una fase, che stanno arrivando prima della formazione della luce, che entrerà dopo che il Creatore si era ritirato. Da Keter a Malchut, tutto consiste di queste cinque fasi. Quando nominiamo le sfere da Keter a Malchut, sa che sono cinque fasi. Keter, Chochmah, Binah, Zeyrampin e Malchut. Quelle quattro fasi, create prima della creazione, non sono la reale creazione, ma solo una preparazione dell'Ein Sof per creare Malchut. È tutto su questo. Tutto è necessario per creare la Malchut. Qui è il il posto per i mondi che studieremo. Ma noi parleremo solo del grossolano, della qualità del grossolano, perché questa è l'unica cosa che noi possiamo imparare e parlare. Non c'è nulla nel comune, ciò che non esiste nello speciale. Ma il nostro studio riguarda solo la luce diretta e non la luce rotonda. La luce rotonda non ha il nostro interesse, ovviamente, ne parleremo, ma non di più. La Kabbalah non ha teoria, perché la teoria non esiste. Hai tutto dentro di te. Sei tu che sperimenterai, perché è tutto tuo. Sentirai i punti di forza che sono dentro di te. Daremo una definizione a tutto ciò quando parliamo di Binah. Saprai cos'è Binah. Sperimenterai ciò che è sopra o ciò che è Keter. Il tuo interiore è l'oggetto del nostro studio ed è ciò che impareremo. Non può mai esserci comprensione in cosa o chi è il creatore. Puoi solo arrivare alla comprensione di te stesso. Ogni cosa di cui parlerò circa i disegni, eccetera, tu sei quello che deve portarli dentro di te. Può esserci solo apprendimento quando lo hai portato dentro te stesso. La luce si era ritirata e questa luce è chiamata il mondo di limitazione, o in ebraico Olam HaTzimtzum. Olam significa mondo e Tzimtzum è la limitazione. Il mondo di limitazione. Dal primo inizio vediamo che tutto ruota intorno alla limitazione. Quando una persona non è preparata dall'interno per limitarsi, non può vedere la luce. Solo la luce rotonda vedrà, perché la luce rotonda è qui per ogni creatura vivente. Stiamo parlando della luce diretta, questa luce che lui non può vedere. Limitazione significa prendere distanza dal tuo amor proprio, perché solo così puoi vedere ciò che è fuori di te. La luce diretta è il soggetto del nostro studio e studieremo anche il mondo di limitazione. Guarda il disegno. Il piccolo punto è il nostro mondo, il nostro pianeta. Quando guardi il disegno, vedi la Terra e tutti i livelli di forze. Nel nostro mondo stiamo lavorando con tutte le leggi della natura. Guarda quante forze ci sono. Ma senza la tua realizzazione non puoi venire alle esperienze di queste forze. E altrimenti puoi sperimentarle prima all'interno di te. La luce si è ritirata, si è limitata, per ritornare dentro i mondi e venire in conformità con le qualità della luce. Ciò significa che stiamo imparando il suo sistema di controllo. Il primo atto nei mondi fu il ritirarsi della luce e la formazione della prima limitazione Tsim Tsum. Ora puoi vedere anche la prima fase della nostra correzione, deve essere anche limitazione. Limitazione significa limitare tutti i tuoi desideri. Senza la limitazione non puoi e non vuoi sperimentare la luce, non ci sarà esperienza della luce di vita. Il primo atto deve essere limitato temporaneamente. Perché non hai ancora la forza per ricevere la luce diretta. La prima limitazione. Ogni volta, ogni giorno è più veloce, è più intenso, è più completo. Tu puoi limitare i tuoi desideri e prima riceverai la luce. Quindi cerca di limitarti il più possibile i tuoi desideri. Temporaneamente vedrai quanto velocemente vai avanti. E noterai che questa non è una favola. È tutto sulla limitazione di te. Questa limitazione è valida anche per i nostri desideri terreni, o meglio dire, specialmente per i nostri desideri terreni. Quando sei un fumatore, cerca di limitarti al fumo, e quando sei un bevitore, limitati a bere o qualsiasi altra abitudine tu abbia. Quando riesci a limitarti a questi desideri terreni, noterai di avere anche un risultato spirituale, anche un effetto sul tuo interiore. E riceverai la luce dall'alto, la luce di vita, è lì per te per essere ricevuta. Non più tardi, non nell'aldilà, ma qui sulla terra, quando il tempo è pronto. La luce di vita è la luce di Chokhmah, or Chokhmah. E la limitazione è necessaria per ricevere questa luce, o Chokhmah. Quando hai finito questa lettura, inizia a lavorare su te stesso. Inizia in un modo semplice per limitare i tuoi desideri. In primo luogo inizia con i piccoli desideri. E più lavoro fai, in un certo modo stai costruendo la forza per limitare i desideri più grandi. Buona fortuna a tutti voi. Disegno 14,1. Fase 1. La formazione di un intermediario tra l'interno dell'essere umano e l'unica creazione di forza è la causa in cui non verrà un vero aiuto dall'alto. Ed è l'uomo stesso che è la causa di tutta la sua miseria. L'unica creazione di forza è la fonte di vita. Edificio superiore. L'intermediario è oggetto di ammirazione, idolo. L'uomo crede in lui e si aspetta da lui tutto il bene. Attraverso questo, lui fa una proiezione tra lui e il Creatore. Questo lo impedisce di puntarsi in modo diretto al Creatore e quindi non riceve il reale aiuto dall'unica forza, dall'unica fonte di creazione. Ciò causa anche in lui che egli non le mostra a lui il suo egoismo in piena capacità e quindi non può sperimentare pienamente il suo egoismo. Fase seconda. Perché inizia a studiare il lavoro spirituale e attraverso il lavoro su se stesso l'immagine dell'intermediario scompare. Ora lui e il suo edificio superiore lo vede brillare in modo diretto. L'unica creazione di forza, la fonte di vita. Ora può vedere sempre di più il proprio egoismo e anche sperimentare il proprio egoismo. E questo lo porta alla vera preghiera, al mantra. E quando forma il vero desiderio, è dire in intensità e quantità, dall'alto verrà una risposta. È certo che può contare sull'aiuto da sopra, secondo la legge spirituale. Un superiore desidera sempre aiutare il più basso in tutte le circostanze. L'unica condizione è il più basso non può ricevere alcun danno attraverso l'aiuto dall'alto. Per esempio, quando non è il suo vero desiderio. L'unica creazione di forza è la fonte di vita. Disegno 14,2. Prima c'era solo Atzmutò, la sua essenza. Lui è insondabile e quindi non è oggetto del nostro studio. Da Atzmutò è nato il pensiero creativo. Per creare una creazione così, ora ci sarebbe qualcuno che potrebbe diventare noto del suo bene. Questo pensiero creato si chiama Ein Sof. L'infinita luce. Ein Sof ha in sé le leggi, sue qualità dell'universo. Queste qualità sono infinite, immutabili e perfette, integre. Ora l'essere umano può portare se stesso per mezzo del suo lavoro spirituale, in conformità con le sue qualità e fondersi insieme con lui. Ma prima l'Ein Sof si era reso grossolano da sé. Lo ha fatto perché la sua luce è troppo forte. La creazione non è in grado di ricevere lui in un modo diretto. Prima lui creò la creazione. C'era un tempo che lui creò solo quattro fasi della grossolanità della luce. Arba Bhinot de Or Yashar. Puoi vederli sul disegno indicato con lettera A. Tutte queste prefasi sono nel mondo dell'infinito Olam Ein Sof. Malchut dell'Olam Ein Sof ha 10 Sfirot. E l'ultimo è il Malchut di Malchut, indicato sul disegno con la lettera B. Ed è chiamato il mondo di limitazione, Olam Tzimtzum. Dentro questo mondo c'era un'altra grossolanità dell'Ein Sof, Olam Adam Kadmon, e poi Olam Atzilut, Olam Briya, Olam Yetzira e Olam Asiya. Il posto più basso è il più rozzo, è il mondo Asiya, Olam Asiya. E questo è il nostro mondo indicato sul disegno con la lettera C. Andremo a studiare la struttura di tutti questi cinque mondi, da sopra a sotto. E qui è messo anche l'uomo con tutte le relazioni reciproche che stanno avvenendo là. Questo noi lo chiamiamo la scala spirituale, la scala di Giacobbe. Quando noi diventiamo familiari con la struttura come è da sopra a sotto, possiamo salire su questa scala dal basso verso alto. Lezione 15. Nella lezione precedente ho parlato molto della limitazione. Malchut si era limitata. Senza limiti non possiamo avere contatto con la forza superiore, l'unica forza di creazione. Perciò ho chiesto a tutti e voi di lavorare su questo argomento di limitazione. Ora è il momento di aggiungere un nuovo aspetto, vale a dire il piacere. Quando non c'è piacere nella limitazione, la limitazione è inutile. Quando ti limiti, fallo con piacere, sempre. Questo è difficile da capire con il nostro intelletto terreno. Ma sappiamo già che tutto ciò che è spirituale è controverso. Com'è possibile unire due poli estremi? Non c'è unità possibile all'interno della nostra comprensione terrena. Ma in quella spirituale si può fare. Quando si arriva a un livello più alto, noterà l'unità. Nella Kabbalah stiamo imparando a vedere e trovare in ogni situazione la totalità. Shalom. Attraverso la Kabbalah impariamo come correggere ogni conflitto. Non parlare dalla propria bocca. Ma la vera unità è su un livello più alto. Questo è possibile solo quando senti il piacere dall'interno e devi imparare questo. Ti avevo chiesto di limitarti. E ora senti la sofferenza. Ti trovi così triste o solitario. O qualunque emozione tu abbia. È possibile entrare in contatto con il passo più alto in questa situazione? Assolutamente no. Questo è un tipo raro di limitazione e non ti darà nulla. Dall'interno ci deve essere una limitazione. Dall'esterno hai le tue cinque frasi, sensi, e devi usarle. Tieni in mente che non stiamo parlando nella Kabbalah di una persona in carne e ossa, o di emozioni. Tutto è spirituale, anche l'esterno. Lascia andare tutti i sentimenti e le immagini della carne e del sangue. La vita eterna esisterà per sempre. Questo è il soggetto del nostro studio. È l'essere interno, l'interno che è dentro di me, è colui che deve sperimentare la gioia. Tu puoi dire di tutte le foto della SIA, devo provare gioia. Questo non è possibile. È inumano, barbaro, controverso. E naturalmente quando guardi questo con il tuo intelletto terreno, Hai ragione. Per tutto il tempo incontreremo queste cose e l'intelletto dirà: no, non è possibile. È controverso. Tutto è iniziato con Adam. Quando Adam incontrò il serpente disse ad Adam: di cosa stai parlando? Pensi davvero di non poter mangiare dall'albero della conoscenza? Guarda quell'albero. Com'è meraviglioso quest'albero. Guarda i frutti, mangia. E Adam, con la sua comprensione terrena, concorda con il serpente. Quando guardiamo allo spirituale attraverso il nostro intelletto, vedremo sempre la contraddizione. Il Creatore chiese ad Adam di limitarsi, ma non poté farlo. Avrebbe dovuto essere migliore Adam quando aveva parlato al serpente. E il serpente è la nostra comprensione terrena e rimarrà con noi fino all'ultimo giorno della nostra vita. Sarebbe stato meglio se Adam avesse detto: non capisco perché il Creatore mi abbia dato questo compito. Per non mangiare dall'albero della conoscenza. Ma non lo farò. Andrò oltre la mia comprensione. Nella Kabbalah impareremo ad andare ogni volta ancora e ancora oltre la nostra comprensione. È il nostro intelletto che dice ogni volta che è controverso, e devi sapere che l'intelletto ha ragione. Il serpente ha sempre ragione. Noi diciamo: assapora il giorno. E alla fine, o quando sai qual è il tuo obiettivo, o quando non hai la comprensione, vai sempre oltre la tua comprensione. Limitare sempre te stesso e avere sempre piacere. Trovare piacere nella limitazione. È possibile questo? Prima io usavo uscire e bere un paio di drink. E ora mi stai dicendo di non andare a sentire la gioia in questo? Quando io sto a casa mi sento triste. Quando ti senti triste, ricorda quanto segue. Solo l'essere esterno si sente triste. L'essere interiore ha sempre gioia. L'essere interiore lo ama perché l'essere interiore ha solo due cose: la verità o la falsità. e l'essere interno sa cosa è vero e non vero. Solo tu non sei consapevole di questo. Questo sentimento o livello non è sviluppato dentro di te, quindi hai poca resistenza considerando l'essere esterno. E tu devi sapere che l'essere esterno è molto forte e l'essere interno non lo è ancora, perciò devi andare oltre la tua comprensione. Dì a te stesso: non lo capisco ancora, ma lo farò. E questo è costato un sacco di sforzi, perché non si tratta solo di dire questo con la tua bocca, ma effettivamente farlo. Per il fare hai bisogno di forza. Hai bisogno della forza. Quindi non sarà un semplice detto. Devi volerlo anche quando ti sta facendo male. Il dolore proviene dall'essere esterno. Ricorda questo. Solo dall'interno. Il suo interiore avrà la gioia. Abbiamo la sensazione di doverlo fare questo in modo forzato. E effettivamente lo è, perché abbiamo così tante variabili. Forse ti sembra che io stia parlando di qualcosa di filosofico, ma la Kabbalah non ha niente con la filosofia. Nelle lezioni precedenti ho parlato del man. In questo vedremo il godimento. Una preghiera significa: mi porto in accordo con il superiore. Cos'è il superiore? Tu sai che tutto è dentro di te. Il problema è che tu non sperimenti ancora questo. Ogni gradino più alto è il mio Dio. Ricorda questo. Non speculare su qualcosa di diverso. Non ti porterà da nessuna parte, tranne un mal di testa. La Kabbalah è lì per aiutarti. La Kabbalah è un insegnamento molto pratico. Cosa intendo con gioia? La gioia è una delle condizioni per andare avanti. La gioia può essere abbattuta dall'interno. Ma come viviamo la gioia? La gioia è sempre qualcosa che è superiore. Quando ti sforzerai in verità per lo spirituale, allora avrai la sensazione che ti stai elevando. O quando si pronuncia una preghiera al superiore, ma sai che questo è possibile solo con la gioia. In questo vediamo anche la contraddizione. Esprimo un desiderio, o faccio una preghiera. E dare una preghiera significa che c'è carenza. È lo stesso con un desiderio. Quando ho un desiderio significa che ho mancanza. Com'è possibile pronunciare una preghiera con gioia? Mentre in realtà hai carenza. Devi sapere, una preghiera senza gioia non è una preghiera. Allora sembri un bambino che sta mugugnando per più caramelle o per un giocattolo. Capisci? C'è fastidio e c'è preghiera. Senti la differenza quando pronunci una preghiera. Senti che ti manca qualcosa e tu vuoi averlo. Non hai la forza e la credi o senti l'oscurità intorno a te e chiedi per illuminarti. Qualunque cosa sia, devi farlo con gioia. Quando lo fai con gioia, sappi che questo è un segno di sincerità. Non pensare mai di essere una persona triste che è fastidioso. La gioia significa che sei sincero. E questo è molto importante. Lasciami fare un esempio. Supponi di aver bisogno di un'operazione. E naturalmente hai paura. È molto comprensibile. Ma dal profondo del tuo cuore provi gioia. Com'è possibile? Guardalo in questo modo. Stai soffrendo e qualcuno ti aiuterà. Certo che hai paura. Ma quando il dolore scompare, sai che avrai gioia perché ti senti molto meglio. È lo stesso con lo spirituale. Tutto il lavoro che fai ti darà gioia eterna. Quindi, ora è il momento delle limitazioni. Cosa devi limitare? I tuoi piaceri terreni? Ti limiti nei tuoi piaceri terreni, nell'elaborazione dei tuoi desideri terreni, a soddisfare i tuoi desideri terreni. Perché quando ti tieni occupato con i desideri terreni, come può esserci la progressione? La limitazione non è per il bene della limitazione stessa. Questo è ciò che le religioni ci stanno dicendo. Limita i tuoi desideri, la tua famiglia, il tuo ego. Ma il Creatore non vuole che tu rompa l'ego. Questo è l'errore più grande commesso nell'intera storia. Guarda, ad esempio, in Cina. Prima le persone erano povere e si accontentavano di una tazza di riso. Ma al giorno d'oggi assaggiano il lusso e amano il capitalismo. Loro sono tali buone persone. Ma non è nell'istruzione fare di un uomo una persona incerta. Ora sono svegli. Ora c'è concorrenza. Ogni cinese diventa una persona. Stanno uscendo dal loro spirito di gruppo. Ogni persona deve uscire dallo spirito di gruppo, perché ora l'uomo è in grado di costruire la relazione individuale con l'unica forza creatrice. Ma questo è possibile solo quando si diventa un individuo e si ha gioia. La gioia è una condizione molto importante. Solo quando si ha gioia, la madre può scendere. E questo è scritto nello Zohar. Nello Zohar vediamo la storia di Yosef. Prima era con il faraone ed era un ministro importante. Prima era un capo dei prigionieri. Ogni vita era nelle sue mani. Aveva una posizione molto alta e poi i ruoli li erano rigirati. È stato gettato nella prigione. E mentre era in prigione, vediamo la stessa frase. Il Creatore era con lui. Quando Yosef, nell'ebraico, Yosef, era un ministro, importante è quando era in prigione, il Creatore era con lui. Quando ebbe successo e quando fu in prigione, il Creatore gli diede chesed, misericordia. Yosef era una persona molto speciale. Le piaceva vivere vicino al faraone anche se era in prigione. È la stessa anima, lo stesso atteggiamento, ad avere gioia in entrambe le condizioni. La negativa è la positiva. Che c'è santità nell'uomo solo quando è nella gioia. Questo è molto importante. Non fare questo errore, altrimenti ti limiti in modo negativo. Stiamo parlando dei limiti che sono presenti nel piano della creazione. Stai sempre attento, considerando il tempo. Può essere che sei triste. Stai sprecando il tuo tempo quando sei triste. Essere triste è così inutile. Non essere triste o solo. Cosa significa essere soli? Stiamo leggendo nel testo. Un uomo deve sempre cercare di seguire il sentiero dove può fluire insieme con il Creatore, che tutti i suoi pensieri saranno con lui. Anche quando si trova nelle situazioni più orribili e pensa che non possa essere peggio, come può l'uomo liberarsi del potere del Creatore? Può esserci un altro potere? Un potere che lo trattiene per venire in santità e che ha in lui il potere di fare il bene o il male? Niente affatto. Quando pensiamo che ci sia un altro potere accanto al Creatore, stiamo sbagliando. Quando pensi che ci sia un potere che ti impedisce di fare buone azioni e di seguire il sentiero del Creatore, stai davvero confondendo. Sappi che tutto viene dal Creatore stesso. Cosa significa? L'uomo deve scegliere il percorso per fluire insieme con il Creatore. Quando comincio a venire insieme, che cosa si intende con questo venire insieme? Che cosa significa questo per me? Soltanto parole vuote. Devi conoscere il tuo obiettivo, qualcosa per cui devi lottare. Tu vuoi qualcosa, ma devi sapere che c'è solo lo sforzo per venire in unione con il piano della creazione. Devi sapere lottare, devi sempre lottare per venire in unione con l'unica forza creatrice, per unirti alla sua forza. Quando hai la sensazione di perdere l'unità, allora hai qualcosa da fare. Ma sono ignorante riguardo al fluire insieme. Non so come si sente questo, come posso provarlo. Guarda la fusione terrena. Può essere un esempio per te. Naturalmente, la fusione terrena è qualcosa di fisico, ma è un ottimo esempio per lo spirituale. Lo spirituale è molto più alto e più intenso della fusione terrena. Essere uno o due corpi che si fondono insieme. Nello spirituale puoi avere anche questo sentimento, diventare uno con l'unica forza creatrice, sebbene non lo sai ancora. Qual è l'unica forza creatrice? È il passaggio superiore. Quello che desidero è il prossimo passaggio. Puoi vedere anche questo come una relazione. Desideri il passo successivo e quando sei arrivato in questa fase, senti e vedi il passaggio superiore. Allora ci sarà molta più comprensione. Intendiamo molto più grande di ciò che hai ora. Puoi immaginare, questa è fusione. In un certo senso ti ci stai mettendo, ti muovi sul gradino più alto, vedrai e sentirai e capirai che è tutto dentro di te. La Kabbalah parla solo delle cose dentro di te. Lo Zohar parla solo di un'anima, l'esperienza di un'anima. Nessuna parola sulla massa o su una nazione, ma riguarda un'anima. Sebbene usi le parole del nostro linguaggio terreno, e l'intelletto non può capire questo. Tutte queste storie e tutte queste azioni come possono far parte di un'unica anima? Così tante parole, luoghi, nomi come patriarchi, 12 apostoli, 12 patriarchi, ed è tutto il significato spirituale, che sono in accordo l'uno con l'altro. Sappi che riguarda solo lo spirituale. Riguardo la fusione. Fusione significa annullarsi per il prossimo successivo studio, stadio, per portare il desiderio a zero, arrendendosi quando vuoi avere una progressione, devi sapere come arrendersi. Non aver paura da rendersi. Sappiamo che non stiamo parlando del nostro mondo. Quando diciamo di arrenderci, intendiamo fonderci insieme con il passaggio più elevato. Questo è arrendersi. Non avere pensieri sulla fusione terrena. Puoi diventare un membro di una festa e unirti insieme con gli dèi di quella festa. O lasciami dare un altro esempio. Per esempio il pensiero olimpionico. Ti unisci insieme allo sport, eccetera. Riceverai dall'oggetto, dalla forza della tua fusione. Questo è il tuo ricevere, e ricevi da tutti gli eventi terrestri. Ma non nello spirituale. Qui abbiamo la fusione con noi stessi. Per arrenderti a te stesso, stiamo parlando riguardo all'arrendersi della luce che splende dentro di te, dentro al tuo interno e con il livello del tuo interiore. Il tuo interno deve essere in conformità alla scala spirituale. Questo è quello che stiamo andando a fare. È così facile arrendersi a ciò che è dentro di te. Più facile di un arrendersi esterno. L'unica forza creatrice è in Yosef. Mi porto in conformità con il prossimo stadio. Il prossimo livello superiore dentro di me. Mi sto parlando in conformità con l'unica forza creatrice e posso fare questo quando io ho il sentimento. Non c'è bisogno di differenziazione. Solo ciò che sorge nella tua mente oggi. Tu sei colui che conosce il superiore e questo è per ogni individuo. Questa è la vera fusione, che tutti i miei pensieri saranno con e per lui. Non parliamo di emozioni. Quando sei con tutti i pensieri, sei con l'unica creazione di forza, i tuoi sentimenti seguiranno. Quando ti senti triste, sappi che la sensazione non può essere cambiata. Non abbiamo la forza di cambiare i sentimenti. I sentimenti sono i desideri che ci vengono dati dall'alto. Non pensare che un cabalista sa cosa sente in 5 minuti. Questo non è dato a nessuno. Ma possiamo fare ciò che segue. Non importa come ti senti, l'uomo ha il potere perché a lui le è stato dato di risvegliare se stesso per la gioia, per andare al passo successivo e di lavorare e attaccare se stesso allo stadio più alto. Questo è il modo per venire a superiore. Ho bisogno di forza. Perché? Perché c'è qualcun altro dentro di me che vuole tirarmi giù. Il nostro ego ci sta trascinando verso il basso. Il tuo ego è lì per te come antagonista, che ti serve per costruire la forza. Così puoi attaccarti al superiore e vincere l'ego. Questa battaglia trova posto ogni giorno, ma ogni giorno è diverso. È lo stesso processo, ma sempre più in alto, mai indietro. Le leggi, ogni cosa ha a che fare con le leggi, ma non conosciamo ancora le leggi. Questo è cosa andremo a fare, apprendere le leggi. E aderire a esse. Ogni persona come un individuo deve fondersi con il proprio creatore, non con il creatore di un'altra persona, di un gruppo, ma con il tuo proprio creatore. È impossibile connetterti con il creatore di un'altra persona. Devi fare le tue proprie correzioni, quelle quello che ti è stato dato all'interno del tuo proprio chilì. Non dire mai lui è nella situazione in cui può farlo, ma non io. Sono ancora debole. Mai dire questo. Sei perfetto nel modo in cui sei. Agli occhi del Creatore sei davvero perfetto. Ognuno di noi è perfetto, ma dobbiamo lavorare tutti noi all'interno della nostra propria struttura. Ricorda questo. Quando lo capisci molto bene questo, non invidierai mai un'altra persona. Saprai che è tutto sulla tua correzione. Questo è ciò che il Superiore sta chiedendo da te. Ognuno di noi ha la possibilità e la forza per fare ciò che è dato a lui. Conoscere le correzioni date a te sono lì per te, per correggere durante i 6.000 anni o stadi. E tu puoi farlo. Non dire io sono debole. Sai, è il tuo ego che parla a te, che tu sei debole. Mai dire ma, è il tutto ego. Il tuo ego vuole tenerti sotto pressione. Lui ti trattiene di pensare riguardo lo scopo della creazione. Nella Torah è scritta una storia riguardo al faraone. Il faraone disse: il popolo ebraico è pigro. Lasciami dare a loro del lavoro extra da fare. Devono lavorare sodo così non possono pensare a loro stessi. Sei consapevole che ci sia una differenza tra quel periodo di dura schiavitù e l'economia di 24 ore che stiamo vivendo ai nostri giorni. Il lavoro libera, disse il faraone, e tutti i tempi. Arbeit macht frei. Lasciatemeli tenere sotto pressione. Dalle molto lavoro da fare. Ma la pressione è da dentro. Come già sai, la Torah non dice una parola sul nostro mondo fisico. La Torah non parla di lavorare con le nostre mani e piedi. È il nostro ego che ti dà questa pressione. È il tuo ego che ti parla: tieniti occupato. Lavoro, lavoro, lavoro. Non c'è differenza. Puoi vederlo questo. Quando lavori sempre più duramente, stai scappando da te stessa. Non hai tempo per pensare a te stesso.